terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Emma diventava difficile, capricciosa. Ordinava piatti speciali e poi non li toccava neppure. Un giorno beveva soltanto latte puro e il giorno dopo dozzine di tazze di tè. Spesso si ostinava a non uscire di casa e poi si sentiva soffocare. Apriva tutte le finestre, si vestiva troppo leggera. Sgridava aspramente la serva e poi la colmava di regali. La lasciava libera di andare a spettegolare con il vicinato. D'improvviso gettava ai poveri tutti gli spiccioli d'argento del suo borsellino. Eppure non era affatto tenera, non era affatto incline a farsi impressionare dalle disavventure altrui, come del resto la maggior parte di quelli che son nati da gente di campagna e conservano per sempre nell'animo un poco della callosità delle mani paterne. Verso la fine di febbraio, per commemorare la famosa guarigione, papà Rouault venne a portare al genero una superba tacchina e restò 3 giorni a Tost. Charles era sempre in giro dai suoi malati. A Emma toccò tener compagnia al padre, che continuò a fumare in camera, a sputare sugli alari, a parlar di campi, vitelli, vacche, pollame e consiglieri municipali, con una tale intensità che, quando si decise ad andarsene, lei gli chiuse la porta alle spalle con un gran senso di liberazione, da cui fu la prima a esserne sorpresa. D'altra parte, lei ormai non nascondeva più il suo disprezzo per tutto e tutti. A volte prendeva a esprimere opinioni piuttosto azzardate, biasimando quanto gli altri approvavano, o approvando cose perverse e immorali. Gli occhi del marito si spalancavano ottusi. Sarebbe proprio durata in eterno quella miseria. Non ne sarebbe mai uscita lei. Eppure le valeva bene tutte quelle fortunate che vivevano nella felicità. Aveva visto duchesse a Vaubyessard con fianchi più grossi e modi di fare più grossolani dei suoi. C'era veramente di che esecrare l'ingiustizia di Dio. Lei appoggiava la testa alla parete e piangeva. Come invidiava le esistenze tumultuose, le mascherate notturne, i piaceri sfrenati, tutti gli stordimenti che le erano ignoti, ma che ne dovevano pur derivare. Impallidiva sempre più, soffriva di palpitazioni di cuore. Charles le somministrava della valeriana, le prescriveva bagni canforati, e tutto quello che tentava pareva inasprirla maggiormente. Certi giorni le capitava di mettersi a parlare con una loquacità febbrile. A queste esaltazioni succedevano di colpo specie di catalessi che la riducevano immobile, muta. Per rianimarsi doveva vuotarsi sulle braccia tutto un flacone di colonia. Dato che lei si lamentava in continuazione di Tost, Charles cominciò a supporre che la causa di quei malesseri andasse cercata in qualche malvagio influsso del luogo, e si fissò talmente su questa idea che pensò a trasferirsi davvero altrove. Fu allora che lei beve aceto per dimagrire, contrasse una tossetta secca, perse completamente l'appetito. Non che Charles lasciasse volentieri Tost dopo un soggiorno di 4 anni e proprio quando cominciava a imporsi, ma dal momento che era necessario. La portò a Rouen dal suo vecchio maestro. Il responso fu che si trattava di una malattia nervosa. Bisognava proprio cambiare aria. Dopo aver cercato un poco dappertutto, Charles venne a sapere che nel circondario di Neuchâtel c'era una borgata chiamata Yonville-l'Abbaye, da cui aveva sloggiato una settimana prima il medico, un rifugiato polacco. Allora scrisse al farmacista del luogo per sapere quale fosse il numero degli abitanti, a che distanza si trovasse il collega più vicino, quanto avesse guadagnato all'anno il predecessore, eccetera. Le risposte furono soddisfacenti e Charles decise che a primavera, se la salute della moglie non fosse migliorata, avrebbe cambiato sede. Un giorno, mettendo in ordine un cassetto in vista della prossima partenza, lei si punse le dita con qualcosa. Era un fil di ferro del suo bouquet da sposa. I boccioli di fiori d'arancio erano gialli di polvere e i nastri di raso argentato tutti sfrangiati. Lei lo buttò nel fuoco. Si infiammò meglio della paglia secca. Presto ne restò solo un cespuglio rosso sulla cenere a rodersi a poco lei lo guardava consumarsi. Le piccole bacche di cartone scoppiavano, i legacci d'ottone si torcevano, i galloni d'argento si fondevano. Indurite le corolle di carta danzavano lungo la placca del camino come nere farfalle e alla fine volarono via su per la cappa. Quando partirono da Tost era marzo e la signora Bovary era incinta. Yonville Bay era una borgata a 8 leghe circa da Rouen, tra la strada d'Abbeville e la strada di Beauvais, in fondo a una valle bagnata dalla Rieule, un fiumiciattolo che, dopo aver fatto girare 2 o 3 mulini presso il suo sbocco, va a buttarsi nell'Andelle. Sino al 1835 non c'era una strada carrozzabile che portasse a Yonville. Ma verso quell'epoca venne aperta una vicinale che collega la strada di Abbeville alla strada di Amiens e serve a volte ai carrettieri che vanno da Rouen alle Fiandre. Nonostante questi sbocchi nuovi, Yonville-l'Abbaye non ha fatto progressi. Invece di migliorare le colture, tutti si ostinano a tenere i loro terreni a pascolo, anche se i pascoli sono sempre più deprezzati e la pigra borgata continua a estendersi verso il fiume allontanandosi dalla pianura. Da una certa distanza la si scorge coricata lungo la riva. Pare un guardiano di vacche che faccia la siesta vicino all'acqua. La sera in cui i coniugi Bovary dovevano arrivare a Yonville, la padrona della locanda, la vedova Le François, era talmente indaffarata che grondava sudore, rimestando tra le sue pentole. Si era alla vigilia del giorno di mercato. Bisognava tagliare la carne in anticipo, pulire i polli, preparare la minestra e il caffè. E la vedova Le François aveva per di più da pensare ai pasti dei suoi pensionanti, a quelli del medico, della di lui moglie e della di lui serva. La sala del biliardo risuonava di scoppi di risa. 3 mugnai nella saletta chiedevano a gran voce dell'acquavite. La legna fiammeggiava, la brace crepitava e sulla lunga tavola della cucina, tra i quarti di montone crudo, si levavan pile di piatti tremolanti a ogni scossa del tagliere, su cui venivano tritati gli spinaci. Dal cortile arrivavano gli schiamazzi dei pennuti che la serva inseguiva per tirargli il collo. Un uomo in pantofole di pelle verde, un poco butterato dal vaiolo, con in testa un berretto dalla nappina dorata, stava a scaldarsi la schiena davanti al camino. La sua faccia esprimeva soltanto la più compiaciuta soddisfazione. Era tranquillo e contento di sé, tranquillo e contento di vivere come il cardellino sospeso sopra di lui in una gabbietta di vimini. Era il farmacista. «Aspettate la corriera per servire il pranzo?» «Aspettare, lo sentireste il signor Binet allora. Lo vedrete entrare alle 6 spaccate. Oh, non ce n'è uno come lui in tutto il mondo quanto a puntualità. E deve sempre avere lo stesso posto nella saletta. Si farebbe scannare piuttosto che mangiare un metro più in là. E com'è schizzinoso! Com'è difficile a proposito del sidro! C'è un abisso tra lui e il signor Léon, che può arrivare anche alle 7, persino alle 7:30, come gli capita, e poi non guarda neppure quello che mette in bocca. Un ragazzo d'oro. Mai che alzi la voce, per nessun motivo!» Suonarono le 6. Fece il suo ingresso Binet. Una lunga faccia smorta dagli occhi piccini e il naso ricurvo. Forte in qualsiasi gioco di carte, buon cacciatore, dotato di una bella scrittura, si teneva in casa un tornio con cui si divertiva a tornire un'infinità di portatovaglioli di cui si riempiva le stanze, conservandoli tutti per sé con la gelosia dell'artista e l'egoismo del borghese. Si diresse verso la saletta, ma fu necessario prima farne uscire i 3 mugnai. Per tutto il tempo che occorse a preparargli la tavola, se ne restò in silenzio accanto alla stufa. Poi chiuse la porta e solo allora si decise a rispettare le convenienze e a togliersi il berretto. «Non sarà certo la buona educazione a consumargli la lingua», commentò il farmacista con lo stessa. Ma la padrona della locanda non gli prestava più ascolto. Stava attenta a un rotolio lontano. Ormai si sentiva il rumore di una carrozza con i ferri allentati che battevano per terra. La rondine si fermò finalmente davanti alla porta. Emma fu la prima a scendere, poi scese Félicité e si dovette svegliare Charles nell'angolo in cui si era addormentato profondamente appena era arrivato il buio. Omé si presentò, porse i suoi omaggi alla signora, fece i suoi complimenti al signore, disse che era onorato di aver potuto essere loro di qualche utilità e aggiunse con manifesta cordialità che, essendo sua moglie assente, aveva osato autoinvitarsi al loro desco. Quando fu in cucina, la signora Bovary si accostò al camino. Con la punta delle dita prese la veste all'altezza del ginocchio e, dopo averla così rialzata sino alle caviglie, tese alla fiamma, sopra l'arrosto che girava, il piede calzato da uno scarpino nero. Il fuoco la illuminava in pieno, penetrando con una luce cruda la trama della veste, i pori uguali della pelle bianca e persino le palpebre che sbatteva di tanto in tanto. Un gran riverbero rosso passava su di lei, secondo il soffiar del vento che filtrava dalla porta socchiusa. Dall'altro lato del camino, Un giovane biondo la guardava in silenzio. Dato che si annoiava molto a Yonville, ove era praticante presso il notaio Guillaumin, spesso il signor Léon Dupuy, era lui il secondo cliente abituale del Leon d'Oro, rimandava l'ora del pranzo il più possibile, nella speranza che intanto arrivasse all'albergo qualche viaggiatore con cui fosse possibile scambiare una parola durante la serata. Omè chiese il permesso di tenere in capo il suo berretto greco, aveva paura dei raffreddori. Poi, rivolgendosi alla sua vicina, «La signora sarà senza dubbio piuttosto stanca. Un viaggio nella nostra rondine scombussola sempre talmente». «Non lo posso negare», rispose Emma, «ma l'animazione non mi dispiace mai. Io adoro cambiare posto». «Che terribile noia», sospirò allora il giovane di studio, «vivere sempre inchiodati allo stesso luogo». «Se invece foste costretto come lo sono io a stare sempre a cavallo», borbottò Charles. «Ma», riprese Léon, e parlava proprio alla signora Bovary, «mi pare che non ci sia nulla di più gradevole, quando lo si può fare, naturalmente». «Del resto», stava dicendo il farmacista, «l'esercizio della medicina non è poi eccessivamente duro dalle nostre parti. Lo stato delle strade, infatti, permette l'uso della carrozza, e generalmente si viene pagati abbastanza bene, ci sono agricoltori agiati». «Ne avrete di pregiudizi da combattere, caro il mio signor Bovary. Abitudini da teste dure, contro cui cozzeranno quotidianamente tutti gli sforzi della vostra scienza. Dalle nostre parti, infatti, si ricorre ancora alle novene, alle reliquie, al prete, piuttosto di rivolgersi, come sarebbe logico, al medico o al farmacista. A ogni modo il clima non è cattivo, per la verità, e nei dintorni contiamo qualche nonagenario». «C'è almeno qualche passeggiata nei dintorni?» continuava la signora Bovary, e parlava proprio al giovane. «Oh, poca roba», replicò quello. «C'è un luogo chiamato La Pastura in cima alla salita, dove comincia la foresta. Ci vado ogni tanto la domenica e ci resto con un libro a guardare il tramonto». «Trovo che nulla è più ammirevole dei tramonti», disse ancora lei, «ma in riva al mare soprattutto». «Oh, lo adoro il mare io», disse Léon. «E poi non vi pare», insisté la signora Bovary, «che lo spirito spazi più liberamente su quella distesa sconfinata, la cui contemplazione eleva l'anima e prodiga idee di infinito, d'ideale? È lo stesso anche con i paesaggi di montagna. Io ho un cugino», replicò Léon. «Mio cugino ha viaggiato in Svizzera l'anno scorso e mi diceva, appunto, che non ci si può neppure immaginare la poesia dei laghi, l'incanto delle cascate, la maestosa suggestione dei ghiacciai. No, proprio non mi meraviglio che quel tal musicista celebre, per stimolare meglio la propria fantasia, avesse preso l'abitudine di andare a suonare il pianoforte davanti a qualche paesaggio imponente». «Conoscete la musica?» domandò lei. «No, ma mi piace molto», rispose lui. «Ah, non lo state ad ascoltare, cara la mia signora», interloquì Omè, curvandosi sul suo piatto. «Questa è pura modestia. Come, giovanotto? Se l'altro giorno nella vostra stanza cantavate l'angelo custode in modo incantevole, vi sentivo dal laboratorio un vero artista». Léon, infatti, abitava presso il farmacista, al secondo piano, in una stanzetta che dava sulla piazza. Thank you. «E che genere di musica preferite?» Emma riprese. «Oh, la musica tedesca, quella che induce a sognare. Gli italiani li conoscete?» «Non ancora, ma li sentirò l'anno prossimo quando andrò a Parigi per terminare i miei studi di legge.» «Come ho già avuto l'onore di far presente a vostro marito», disse il farmacista. «Grazie alle follie di quel poveraccio di Yanoda che se n'è scappato, avrete a vostra disposizione una delle più confortevoli case di Yonville. Quel che ha di più comodo per un medico è una porta sul nostro viale che permette d'entrare e uscire senza essere visti. Dall'altra parte è fornita di quanto è necessario a una famiglia: lavanderia, cucina continello, stanza di soggiorno, deposito per la frutta, eccetera. Era un sacripante che non badava proprio a spese. S'era fatto costruire in fondo al giardino, sopra il fiume, una pergola apposta per bere la birra d'estate. E se ama il giardinaggio, la signora potrà...» «Mia moglie non se ne interessa per nulla», disse Charles. «Sebbene io non faccia altro che raccomandarle un poco di moto, preferisce starsene tutto il giorno chiusa in camera a leggere.» «Oh, proprio come me», riattaccò Léon. «E che cosa ci può essere di meglio che leggere un bel libro accanto al fuoco la sera mentre il vento batte alle imposte e la lampada splende?» «Pare anche a voi, vero?» disse lei, fissandogli addosso i grandi occhi spalancati. «Non si pensa a nulla», continuò lui. «E così passano le ore. Senza muoversi si attraversano paesi mai visti, eppure reali. E il nostro pensiero, intrecciandosi con la finzione, entra con piacere in ogni particolare, segue il filo di ogni avventura, ci si confonde con i personaggi, ci sentiamo noi stessi palpitare sotto i loro panni.» «Com'è vero! Dio, com'è vero!» diceva lei. «E non vi è mai capitato?» rincarava lui. «Di incontrare in un libro un'idea vaga che già avevate avuto? Qualche immagine oscura che pare tornare di lontano? Insomma, quasi la più completa rivelazione del vostro sentimento più sottile?» «L'ho provato! Anch'io l'ho provato!» rispose lei. «È proprio per questo che io amo soprattutto i poeti. Trovo i versi più dolci della prosa. Mi fanno piangere tanto di più.» «Però alla lunga annoiano», ribatté Emma. «Io adesso... ho una passione per le storie che si leggono tutte ad un fiato e fanno paura. Detesto i personaggi banali, i sentimenti moderati. Ce ne sono già troppi nella vita di ogni giorno.» «Effettivamente», osservò il giovane di studio, «le opere che non toccano il cuore si allontanano, a mio modesto parere, dal vero fine dell'arte. È così consolante in mezzo alle delusioni della vita poter tornare con la mente su caratteri nobili, affetti puri, visioni di felicità. Quanto a me, costretto a vivere qui, tagliato fuori dal mondo, la lettura è l'unica distrazione. Ha talmente poco da offrire, Yonville, sapete.» «Sarà come Toast, senza dubbio», continuò Emma. «Per questo ero sempre abbonata a una biblioteca circolante.» Senza accorgersene, preso dal discorso, Léon aveva posato il piede su un piolo della sedia della signora Bovary. Così, vicini, proprio vicini, mentre Charles e il farmacista chiacchieravano, quei due si abbandonarono a una di quelle vaghe conversazioni che, con qualche frase fortuita, riconducono immancabilmente al centro fisso d'una reciproca simpatia. Spettacoli parigini, titoli di romanzi, nuove quadriglie e il mondo che ignoravano, Toast, ove aveva vissuto lei, Yonville, ove si trovavano. Si occuparon di tutto, parlaron di tutto, sino al termine della cena. Quando fu servito il caffè, Félicité se ne andò a preparare i letti nella casa nuova. Presto i commensali tolsero la seduta. Il paese dormiva. I pali del mercato allungavano grandi ombre. La terra era tutta grigia come nelle notti estive. Ma dato che la nuova casa del medico si trovava a un 50 passi dall'albergo, dovettero augurarsi quasi subito la buonanotte e la compagnia si disperse. Era la quarta volta che Emma dormiva in un ambiente sconosciuto. La prima era stato il giorno del suo ingresso al convento, la seconda quello del suo arrivo a Toast, la terza quello della sua visita alla Vaubyessard, la quarta era questa. Ogni volta aveva in qualche modo segnato una nuova fase nella sua esistenza. Lei non poteva credere che le cose si ripetessero identiche in posti diversi. La parte vissuta era stata abbastanza brutta. Nessun dubbio che quella che le restava da vivere sarebbe stata migliore. Elsa Agalbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it